Agora e aqui, fica ali, oh. E o mancha só não vai medalhão. Perdeu um bastardo de lática, saia na larga, cê foi. Sarra na vida, foi uma tenedica, o sono quase doi. Appena sono nato, sono stato abbandonato. Un balordo mi ha trovato e con il whisky mi ha lanciato. Forte sono cresciuto senza macchia né paura. Con la testa molto dura. Sono più bastardo della città. Paga una birra e poi vattene di qua. O sono cazzi tuoi. Sei più bastardo della città. Taglia la larga se poi paga una birra, poi vattene di qua, o sono cazzi tuoi. Grazie! Dada la vai! Ma dove cazzo ti pare? Ma non ti far più vedere, tirami al largo dai fammi il piacere, non sei mi stai sul cazzo e se ti becco io t'ammazzo, ti strozzo, so pazzo, ma proprio rotto i coglioni, questo è propositi buoni, rispettoso delle leggi, allora non affici sul divieto d'affissione, sei proprio un coglione. Che cazzo mi vieni a dire? Io non ti voglio sentire. Noi siamo l'alternativa, la destra cattiva. Noi siamo la sinistra antagonista. Io sto te fissa e la mia testa non te la do. In questa spia se puoi, grazie. Hola gringo, no comprar pan. Spendi bene i tuoi soldi. Quando faremo un grande logo di questa merda di città, compra pan, compra dinamita, la città più non finirà. Ma che caserme e carceri, tutto in aria salterà. We'll be right back. compra dinamita. Vedremo si tempo che faccia qua. Quando si sveglierà al mattino con un candelo piccolo e suonerà. Compra qua, compra dinamita. Se per prete ci perdonerà. Quando il suo Cristo scenderà dalla croce, per lo spavento fuggirà. Compra qua, compra dinamita. Vedrà che grande festa si farà. Di chiese e tribunali, di preti e cardinali, più nessuna traccia resterà. forse tutto d'oro. Numerose campagnole discendono le valli in fior. Oh campagnola bella, tu sei la reginella, negli occhi tuoi c'è il sole, c'è il colore delle viole, delle valli tutte più. Se canti la tua voce, un'armonia di pace, che si diffonde e dice, se vuoi vivere felice devi vivere qua giù. Quando è la festa del paesello, fratello si veniva, porta il groppa l'asinello, la porta verso la città. Oh campagnola bella, tu sei la reginella, negli occhi tuoi c'è il sole, c'è il colore delle viole, delle valli tutti più. Se senti la tua voce, un'armonia di pace, che si diffonde e dice, se vuoi vivere felice devi vivere qua tu. Grazie. Leggerebbe sul giornale me, fratello mio, inginocchiati a Dio. Lui ti perdonerà, lui è l'onnipotente, tutto vede, tutto sa te. Non te ne fisce a te, non me ne frega un cazzo, non me ne frega un cazzo. Sottomettiti a Dio. Non me ne frega un cazzo, non me ne frega un cazzo del Dio governo, del paradiso e dell'inferno. Vieni a me, fratello mio. Inginocchiati al tuo santo e Dio. Luce ma non si vede e comanda su di noi. Ed io rifiuto ogni autorità. Se il tuo Dio comanda, non mi sottometterà. Fratello bello, inizia a pregare le sue leggi. Devi seguire. Non ho bisogno delle sue leggi. Io credo nella libertà. Volete assassinare la mia ragione. Vedere per non pensare, per volermi meglio comandare. Vedere per non pensare, per volermi meglio comandare. Vedere per non pensare, per volermi meglio comandare. sognerai le mie ossa dondolanti da spazzolo. Se senti pace non riposerò. Una brutta notte forse una mala notte. Di vendetta come bestia maledetta, come diavolo impazzito, senza grazia né bontà. Porta di vago queste catenata sulla testa, veste il corpo sotto per dirigire senza pace sta. Grazie! Per sentire la mia broda, che questa è di gran moda, io ci metto anche la soda. È cadone! Porti i pugni in faccia, con la sangue dal naso come l'acqua dalla doccia. Il mio capitato è tutto rotto e senza fiato, si rannicchia poi sa cascia tutto spappolato. La bestia non dita che picchia di tanta ragione, sono tutti i denti dalla bocca del coglione. Si spacca le ginocchia che gli amici della festa, davanti a fatti che credo la tenezza alla cuccia. Senti se sapere pezza, ma che me coglioni sono entrati con saluto a tuccia ma dei leoni. Passo già cantali e urla siete rovinati, se non creperete avrete nuovi connotati. Un luogo sarò alza piede un tavolino, lo spacca sai felice sulla schiena del cretino. Il barista ride e si scola la sua graffa, attorno allo stoccione poi si gratta una chiaffa. Pa pa pa pa pa. Let's se c'è qualche volta partita qui, ragazzi nelle valle, di veluri di miglia qui, c'è cartese suona la canzone della risa, cosa dottri che canta, qui nessun fascista passa! Che tristezza beve pezza, che bene avete trovi quando fatti fatti senza per la spalla e poi non torna da troppo da camera da corra stagli attaccato e mi spaccherò il culo prende il suo randello e pensa il calcio a come mulo. Grazie. Grazie. Non sono un gran bugiardo, pagatemi una birra, un whisky e vi racconterò quel che l'altra notte mi è successo ed ero sveglio mentre un po' ubriaco rincacavo dal disto. Appoggiata al mio portone se ne stava Giulio il Guercio, che dopo morto fantasma diventa incredulo e tremante, lo saluta a gran voce, lui non disse una parola ma seguirlo mi invito. Fermi con le stradine che non percorsi mai, forse sottoterra quella notte me ne andai, nella città dei morti amici c'è un gran bel bistro dove la birra scorre a fiume quando suona l'accordione. Scheletri beveva, porto il diavolo giocava a dadi, la banda bomba scinde un infernale rock and roll, privi di Billy Matto, danza con la bella Lorna, lei mostrando le sue grazie, un dolce bacio mi volò. Amici miei credete che fosse solo un sogno, un alcolico delirio che presto mi lascia, ma quando verrà il mio momento io creperò contento accarezzato da un momento con i morti me ne andrò per piccoli e stradine che non percorsi mai, forse sottoterra quella notte me ne andai, nella città dei morti amici c'è un gran bel disco dove la birra scorre a fiumi e bacco suona l'accordio. Merci. E famo desta mazurka. Cantando allegramente me ne vo per la città, tra automobili e palazzi e da ogni tanti passi, che cazzo faccio qua? Sogno di vivere in campagna con la mia bella balù, con la papera e il maiale e il mio porco fedele, io sono un agropa. sogno di vivere in campagna con la mia bella balù, con la povera e il maiale e il mio porco fedele. Io sono un agropan, con la povera e il maiale e il mio porco fedele. Io sono un agropan, con la povera e il maiale e il mio porco fedele. Io sono un agropan. Pensavo una volta piegato non si riaddrizzava più. Pezzi, regà. Un regalo al Papa questo. Bye. mano fatta si sono messi per segnare gli incalliti perché senza virtù anche se ormai chiudo un occhio alle calzucche al patocchio grazie alla da Gesù si a me cattivo e infernali arrostisco nei maiali odorati santità fatti una bevuta vivo il Vaticano brucia fatti una risata oggi a quei fatti papà i nostri padri beveva le nostre madri noi che figli siamo beviamo beviamo beviamo noi che figli siamo beviamo beviamo beviamo noi che figli siamo beviamo beviamo beviamo noi che figli siamo beviamo beviamo beviamo Oh, bevevano i nostri padri, bevevano le nostre madri. Alla salute di tutti! Adios! Ma siete sicuri? Fonico, se può fa'? Grande richiesta, insomma, vabbè. Caciotta ha detto c'ha la corrente alternata. Al culo. Andiamo, cacio. Vai. Vai. Quando tutto affonda resti solo tu. E lo meglio questa città, ma sarà sempre lo stesso, ovunque te ne andrai. Non esiste ancora un posto per noi. Il terrore grazie, buonanotte.